Intesa San Paolo, official global banking partner di Expo Milano 2015. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, sollievo per l'accordo con la Grecia, soprattutto in Europa, ma anche in America. Sappiamo quanto Barack Obama avesse fatto pressioni perché l'Europa riuscisse a trovare una soluzione alla crisi greca. La preoccupazione della Casa Bianca era che questa crisi avrebbe potuto poi propagarsi dal continente europeo sull'economia mondiale, e naturalmente nel momento in cui si entra in territorio sconosciuto non si sa bene quello che può capitare, e dunque era meglio evitare il rischio, soprattutto in un momento storico in cui prevalgono le instabilità. Pensiamo per esempio soltanto alla guerra ancora in corso in Ucraina, o meno al tentativo di superare la crisi ucraina, quello che sta succedendo con l'ISIS in Medio Oriente. Ecco, io vorrei parlarvi oggi proprio di Medio Oriente, perché c'è un altro momento storico importante. Probabilmente entro oggi, almeno tutti se lo augurano, potrebbe chiudersi un altro accordo, un accordo davvero storico, quello cioè fra il P5 più 1, le grandi potenze del Consiglio di Sicurezza dell'ONU che hanno il diritto di veto, dunque Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Cina, Russia, con la Germania, che hanno negoziato per 2 settimane molto molto intense a Vienna con l'Iran per raggiungere un'intesa sul nucleare. Ne abbiamo parlato varie volte in questa trasmissione, ci sono degli aspetti tecnici che abbiamo esaminato in passato. L'accordo quadro è un accordo che dovrebbe poter andare bene perché garantisce che per 10 o 15 anni l'Iran non faccia più sviluppi nucleari, e dunque nel frattempo potrà tornare a crescere, potrebbe esserci un'inclusione dell'Iran nella comunità internazionale. Ecco, dunque vorrei guardare oltre questo accordo, e dunque ho con me ai microfoni di America 24 Alberto Negri, che è uno dei maggiori esperti di Medio Oriente, inviato del Sole 24 Ore, che ha seguito proprio questo negoziato per capire che cosa sta succedendo, per capire che cosa capiterà dopo, l'importanza strategica dal punto di vista internazionale di questo accordo. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Sei d'accordo intanto sul fatto che qui sul piano storico quello che noi stiamo recuperando è un ritorno dell'Iran, cioè un Iran che è stato isolato per quasi 35 anni dalla comunità internazionale e che a un certo punto ha la possibilità di diventare di nuovo parte di questa comunità internazionale? Ecco, secondo te questo è uno degli aspetti importanti? Ma sì, direi che è un aspetto molto importante che ci fa ripercorrere anche un po' la storia di questo paese, una storia forse non troppo conosciuta. Molti forse non si ricordano che nel 1945, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, la Guerra Fredda cominciò proprio in Iran. Cominciò qui perché l'Iran era occupato sia dagli inglesi che dagli americani, ma anche dai sovietici, e i sovietici non se ne volevano andare. Fu proprio qui che venne elaborata la famosa dottrina Truman, cioè la dottrina del presidente americano che cercava appunto di contenere l'espansionismo dell'Unione Sovietica. Quindi per un buon numero di anni in realtà l'Iran fu un paese alleato degli Stati Uniti sotto lo Shah Reza Pahlavi, con però degli episodi che furono abbastanza anche controversi, perché quando diventò primo ministro per esempio Mossadegh, che volle nazionalizzare il petrolio, anglo-americani organizzarono un colpo di Stato nel 1953 che portò prima alla fuga dello Shah e poi a un suo ritorno sul trono. E insomma l'Iran per molto tempo, fino alla rivoluzione del 1979, fu saldamente nel campo occidentale, tanto è vero che gli Stati Uniti mantenevano addirittura un personale di 100.000 persone del Peace Corps in questo paese. Ecco, poi arriviamo al regime degli Ayatollah che permane. Allora, proprio grazie a questa tua ricostruzione, Alberto, viene fatto di chiedersi: ma è possibile immaginare che l'Iran torni ad essere vicino agli Stati Uniti o comunque all'Occidente? Ma dunque, Innanzitutto la rottura, ricordiamola, fu quella del 4 novembre 1979, quando furono presi 440 ostaggi dell'ambasciata americana, vennero rilasciati a poco a poco e infine, quando la presidenza tornò a Reagan, vennero tutti liberati. Fu una rottura storica, ci furono interrotte le relazioni diplomatiche. Allora, la storia sta così. In realtà, che gli Stati Uniti e l'Iran ridiventino alleati come i tempi dello Shah, questo lo escluderei. La cosa più probabile è che invece, come è stato detto ampiamente anche nei mesi scorsi, prima che si potesse arrivare a questa fase del negoziato, è più probabile che invece Iran e Stati Uniti non si facciano male a vicenda come si sono fatti male nei decenni precedenti, cioè che sia da parte di Washington che di Teheran ci sia una maggiore attenzione a muoversi nella regione e a non mettere in pericolo gli interessi degli uni e degli altri. Ecco Alberto, scusa, hai toccato il punto centrale, la regione. La regione, sappiamo che c'è l'Arabia Saudita che vede come il fumo negli occhi questo accordo tra Stati Uniti e Iran. Sappiamo che dietro quello che è capitato con l'ISIS, con queste ribellioni sunnite, dietro ci sono sicuramente i soldi dei sauditi e di altri sunniti importanti. Ecco, come la vedi l'equazione? C'è un rischio di rottura da un'altra parte? Qual è? Tu conosci a fondo la regione. Qual è il rischio davanti a noi? Il rischio è questo, che si ripetano gli errori che si sono fatti in passato e sono stati clamorosi, perché nel 1980 l'Occidente incoraggiò per esempio Saddam Hussein ad attaccare l'Iran con i risultati terrificanti che sappiamo, no? Saddam Hussein finì indebitato fino al collo con i soldi delle monarchie del Golfo e poi addirittura dopo pensò di invadere il Kuwait. La rivalità tra l'Iran e l'Arabia Saudita è evidente, l'Iran è il portabandiera dello sciismo, cioè di un ramo minoritario dell'Islam che comunque è maggioritario in Iraq, che ha una grande diffusione in Libano e in altre parti della regione, e dall'altra parte c'è l'Arabia Saudita, custode dei luoghi santi della Mecca e della Medina, che è la roccaforte del sunnismo. Questa rivalità in un certo senso è irriducibile dal punto di vista storico e religioso, però si possono arrivare a dei compromessi gli Stati Uniti dovrebbero questa volta agire in un certo modo da ponte fra Teheran, l'Arabia Saudita e le altre potenze regionali, in modo che si fermino i conflitti nella regione. Ecco, un'ultima cosa Alberto, qua in mezzo non possiamo dimenticare che ci sta a un certo punto Israele che chiude il triangolo. Ecco, secondo te questo accordo potrà sbloccare qualche cosa diciamo nel processo di pace fra israeliani e palestinesi? No, non credo perché l'influenza in realtà dell'Iran, che c'è ovviamente su Hamas, cioè su Gaza, è però limitata, e in un certo qual modo comunque la questione è interna al triangolo tra i palestinesi della Cisgiordania, quelli di Gaza e Israele, con una variante però molto importante che si è introdotta nell'ultimo anno e mezzo, cioè l'ascesa del califfato. Se non viene fermato il califfato, le spinte al radicalismo della regione diventeranno ancora più incontenibili. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, iniziamo la settimana con una canzone nuova. Vi ho proposto le canzoni simboliche la settimana scorsa e oggi vorrei suggerirvi di Avicii, Waiting for Love, che è stata appena distribuita in America. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. For every tyrant to tear for the vulnerable. And every loss, so the bones of a miracle. For every dreamer, a dream we're unstoppable. With something to believe. Monday left me broken. Tuesday I was through with hoping. Wednesday my empty arms were open. Thursday waiting for love, waiting for love. Thank the stars it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Guess I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love. So come around.